perché non sia d'accordo nell'interpretazione della scrittura. Sono pochi i problemi sentiti da così tante persone come quello di non essere d'accordo nell'interpretazione della scrittura. Sarebbe desiderio di ogni figlio di Dio un'interpretazione della scrittura, e quindi della volontà di Dio, condivisa da tutti i credenti, sia per evitare quelle divisioni che tanto lacerano il cristianesimo, sia per avere con più certezza il giusto consiglio di Dio. Se i credenti che si professano cristiani dicono verità diverse, chi ha ragione? Come posso io conoscere la volontà di Dio se una denominazione o un gruppo di persone mi dice di fare una cosa, mentre altri mi suggeriscono diversamente? La pena di morte è la volontà di Dio, alcuni dicono di sì, altri no. Gli uomini sono predestinati per la condizione futura ed eterna? Alcuni dicono di sì, altri no. Perché queste differenze di interpretazione della volontà di Dio? È possibile giungere ad una definitiva conclusione? Molto probabilmente no, ma è sempre utile sapere perché non tutti interpretano la parola di Dio nello stesso modo, e lo vedremo in queste riflessioni, prendendo in esame 7 ragioni. Interpretare la scrittura è questione di sapienza e conoscenza. L'Apostolo Paolo in merito ha scritto qualcosa di molto chiaro. 1 Corinzi 2:12-16. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. O l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Dobbiamo prendere sul serio le parole dell'Apostolo Paolo e accettare che la comprensione della Scrittura appartenga a quella sapienza innaturale per l'uomo, cioè non appartenente al pensiero logico, ma di proprietà di Dio. Dobbiamo pure accettare l'affermazione radicale secondo la quale nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Infatti l'Eterno disse tramite il profeta Isaia: «Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Is 55.89. L'Eterno sta dicendo che la dimensione divina è talmente diversa da non poter essere neppure concepita dall'essere umano. Per comprendere come sia diverso il mondo divino da quello umano, occorre fare il paragone tra il mondo animale e la dimensione dell'uomo. Un animale non sarà mai in grado di comprendere l'essere umano, i suoi sentimenti e i suoi progetti, come l'uomo non è in grado di comprendere i pensieri di Dio. Però, se all'animale noi diamo uno spirito umano, esso può essere in grado di afferrare i sentimenti umani. Come all'uomo è stato dato da parte di Dio uno spirito in grado di comunicare con Dio. Ma lo spirito dato da Dio all'uomo serve solo per metterlo in contatto con Lui, e non è sufficiente per fargli comprendere i pensieri di Dio. Così l'uomo ha bisogno di ricevere lo spirito di Dio stesso per essere abilitato a afferrare i pensieri del Dio Trino. Ecco perché, aggiunge Paolo, a chi pone fede in Cristo, Dio ha dato la persona dello Spirito Santo perché il credente possa comprendere ed esprimere cose spirituali con parole spirituali, cioè procedenti da Dio. Perciò chi non ha la persona dello Spirito Santo è impossibile, e bisogna sottolineare il termine impossibile, che comprenda il pensiero di Dio. Questa è la prima e importante ragione per la quale non tutti interpretano la parola di Dio nello stesso modo. Questa verità, calata nel mare inquinato della religione, ha l'effetto di una bomba atomica. Il cattolicesimo romano insegna che si diventa figli di Dio mediante il battesimo da neonati e si riceve lo Spirito Santo in modo completo con il sacramento della confermazione. Così recita il catechismo della religione cattolica romana: la confermazione perfeziona la grazia battesimale. È il sacramento che dona lo Spirito Santo per radicarci più profondamente nella filiazione divina, incorporarci più saldamente a Cristo, 1316. Perciò per il cattolicesimo romano, la perché non si è d'accordo nell'interpretazione della Scrittura. Confermazione sarebbe una esperienza simile a quella dei pentecostali, i quali credono nel battesimo, nello Spirito Santo, come una esperienza susseguente quella della nuova nascita. Se con il battesimo il credente cattolico romano nasce di nuovo, diventa il tempio dello Spirito Santo, 1279, con la confermazione, il cresimando riceve il marchio, il sigillo dello Spirito Santo, 1295, la piena effusione dello Spirito Santo, come già fu concessa agli apostoli il giorno della Pentecoste, 1302. In questo modo tutti i cattolici avrebbero lo Spirito Santo. Questa assurda opinione trova evidente negazione nel fatto che quando un cattolico pone fede in Cristo quale unico Signore Salvatore e come l'unica autorità alla quale ubbidire, da quel momento comprende le scritture che gli venivano insegnate fin da piccolo. Così fu per l'apostolo Paolo, che conosceva molto bene le scritture prima di ricevere lo Spirito Santo, ma non le intendeva. Così è stato per me, che venivo istruito nella dottrina cattolica. Così è stato per le decine e decine di persone che ho visto porre fede in Cristo, nonostante fossero cattoliche o protestanti. Perciò, poiché i cattolici che seguono la religione in modo formale non hanno lo Spirito Santo, è normale che non interpretino la Scrittura come chi ha lo Spirito Santo. Ho parlato con molti sacerdoti cattolici e alcuni di questi mi hanno negato l'esistenza dell'inferno. Potevano questi avere lo Spirito Santo? Ho parlato con dei testimoni di Geova che negano la divinità di Gesù. Possono questi avere lo Spirito Santo? Ho letto delle testimonianze di teologi che ad un'età avanzata si sono resi conto di non possedere lo Spirito Santo. Cosa spiegavano o cosa intendevano queste persone della Scrittura prima di entrarne in possesso? Secondo l'affermazione della dottrina del cattolicesimo romano, il Papa ha ricevuto lo Spirito Santo nel momento della confermazione, ma essendo tale insegnamento assolutamente negato dalle dichiarazioni stesse della Sacra Scrittura, mi domando cosa possa insegnare di vero della parola di Dio. Sono interrogativi seri e inquietanti che non si possono ignorare. Non vi sono dubbi. Paolo definisce la persona dello Spirito Santo come colei che scruta, versetto 10-11, che rivela, versetto 12, che ispira, versetto 13, e illumina, versetto 14-15. In definitiva, la persona dello Spirito Santo è colei che rivela i pensieri profondi di Dio, è l'unica interprete della Santa Scrittura. Anche il cattolicesimo romano conosce questa verità, al punto che nel suo catechismo afferma: la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo mediante il quale è stata scritta. 111. In merito alla Bibbia dice: ciò che opera dello Spirito, la Bibbia, non viene pienamente compreso se non sotto azione dello Spirito. 137. Eppure dice anche che l'ufficio di interpretare correttamente la parola di Dio è stato affidato al solo Magistero della Chiesa, al Papa e ai Vescovi in comunione con lui. 100. L'altro aspetto strettamente collegato al secondo è che chi non è nato di nuovo non può interpretare correttamente la parola di Dio, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano. Gesù stesso lo proferì quando rivelò a Nicodemo che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, GV 3.3. Non vedere il regno di Dio significa anche non comprendere le Scritture, poiché si nasce di nuovo per mezzo della persona dello Spirito Santo, mediante un atto di fede in Cristo. È evidente che i cattolici, i quali, al contrario di quanto affermato dalle Scritture, si ritengono nati di nuovo mediante un battesimo ricevuto da neonati leggendo la parola di Dio, non la comprendano. Ai fedeli cattolici è preclusa la possibilità di ricevere le rivelazioni dello Spirito, o almeno quelle rivelazioni contrastanti i principi fondamentali del cattolicesimo romano, a causa delle quali, come ha dimostrato la storia, si può essere scomunicati. o, se i tempi lo favoriscono, si è perseguitati, torturati e assassinati. Stessa cosa per i protestanti o evangelici. Oggi non vi sono più protestanti, ma dei non cattolici. Nel mondo protestante si va a braccetto con il cattolicesimo romano, ritenendo il Papa e i vescovi dei fratelli, ai quali si addebitano colpe moralistiche, come la guerra santa, ma non errori dottrinali fondamentali. Occorre guardarsi da un eventuale errore in merito al possesso dello Spirito Santo. È vero che non si comprende la parola di Dio se non si ha lo Spirito Santo, ma non è detto che chi ha lo Spirito Santo afferri automaticamente in modo corretto la parola di Dio, perché questo sarebbe sforzare. Perché non si è d'accordo nell'interpretazione della Scrittura un sano ragionamento. Come non è garantita una vita esente da peccato per chi possiede lo Spirito Santo, così non è garantita neppure la giusta interpretazione, dato che per comprendere correttamente la parola di Dio occorrono anche altri elementi. Se per non peccare è necessario e indispensabile assumersi l'impegno di non fare posto al diavolo, se occorre pregare per non cadere in tentazione, se è necessario leggere la parola di Dio per sapere come evitare il male, così chi ha lo Spirito Santo deve mettere in pratica altri aspetti della vita cristiana, senza i quali si cade in una interpretazione errata. Quali siano poi questi elementi, è oggetto del nostro studio. Stabiliti questi due aspetti per coloro che non sono figli di Dio, per coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo ci sono almeno altre 5 ragioni per cui la parola di Dio non viene interpretata unanimemente. Il terzo aspetto è che non tutti accettano l'autorità sovrana della Scrittura stessa. Per autorità sovrana si intende che la Bibbia a dettare le regole di condotta e di dottrina, e non la tradizione o i credi. Non accettare l'autorità della Scrittura divide inesorabilmente cattolici e protestanti, e, anche, il protestantesimo stesso, nelle sue molteplici forme interne. Il cattolicesimo non accetta l'autorità della Scrittura perché la tradizione e la parola di Dio devono essere accettate e venerate con pari suvi, sentimento di pietà e di rispetto, Catechismo della Chiesa Cattolica 8.2, e per loro Gesù ha detto: «Voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione», Mt 15.16. Per tradizione non si intendono le abitudini culturali, come l'usanza dei sacerdoti di indossare l'abito talare, oggi sostituito invece dai pantaloni. Questa non è la tradizione alla quale si rifà il cattolicesimo, e per questo esso è in grado di adattarsi alla cultura attuale. Ma per tradizione, il romanesimo intende gli scritti dei padri della Chiesa e ciò che è stato definito dogma dai teologi cattolico-romani nel corso dei secoli. In questo modo il cattolicesimo romano ha trovato un pozzo dal quale poter attingere quello che vuole. Infatti, sia i padri della Chiesa, sia vescovi, papi e teologi cattolici nel corso dei secoli hanno detto di tutto e di più. In questo modo, il cattolicesimo romano può sostenere qualsiasi opinione, basandosi su scritti del passato ed avere l'approvazione da essi. Infatti, come molto abilmente il romanesimo di secoli in secoli è in grado di attingere ovunque, è pure in grado di ignorare volutamente verità che sono contrarie o scomode. Prendiamo ad esempio la canonicità dei libri apocrifi. Ancora oggi tra protestanti e cattolici romani non vi accordo sui libri ritenuti ispirati da Dio, perché per i protestanti i libri canonici sono 66 in conformità a quanto giudicato dagli ebrei, mentre il cattolicesimo romano ne dichiara molti di più, avvalendosi anche del fatto che i primi padri della Chiesa citassero gli apocrifi nei loro scritti, tuttavia volutamente omettendo nel contempo che tali colonne della Chiesa non attribuivano a quei testi la stessa autorità della parola di Dio. Girolamo, per esempio, accettava solo i libri del canone ebraico. Egli riconosceva gli apocrifi semplicemente come libri di valore ecclesiastico, cioè destinati alla lettura. Quando Atanasio, morto nel 365, elenca i libri dell'Antico Testamento, cita solo i libri contenuti nelle edizioni protestanti. Agostino, nello scrivere attorno al libro di Giuditta, riconosce che esso non si trovava nel canone degli ebrei. E, quindi più corretto affermare che solo alcuni dei padri della Chiesa sembrano a favore degli apocrifi, mentre altri hanno avuto un chiaro atteggiamento contrario alla loro canonicità. D'altra parte, anche il protestantesimo nelle sue molteplici manifestazioni, tra i quali i liberali, considera la Bibbia un libro pieno di morale, perciò molti dei suoi racconti storici sono ritenuti delle favole. Considerazione per la quale si può affermare quindi che in definitiva la Bibbia contiene la parola di Dio, ma non è la parola di Dio stessa. Con queste premesse, com'è possibile interpretare la parola di Dio in modo uniforme? Se il racconto di Giona è inghiottito da un pesce, viene da alcuni ritenuto solo un racconto moralistico, come sarà possibile, per esempio, accordarsi con me che lo interpreto in modo letterale? Se la salvezza è un'opera esclusivamente di Dio offerta per grazia e accettata per fede, com'è possibile andare d'accordo con chi ritiene che la salvezza è un'opera di Cristo, ma da doversi anche guadagnare con una vita santa, come dicono i cattolici e i testimoni di Geova? Qui non si tratta di volersi separare o di voler contestare chi la pensa diversamente, si tratta di accettare che la scrittura sia al di sopra di ogni altra autorità umana perché gli uomini religione, perché non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura, cattolica compresa, sono passibili di errore. Se la parola di Dio non è da prendere come unica autorità in materia di condotta morale, è normale ritenere l'omosessualità una pratica lecita, l'aborto un semplice diritto della donna. Una volta creduti il diluvio e la distruzione di Sodoma e Gomorra, solo immagini moralistiche, è normale in seguito pensare lecite alcune cose espressamente condannate da Dio. Battendo queste strade, cioè non osservando letteralmente la parola di Dio, l'uomo è guidato solo dalla sua morale, morale che cambia secondo i tempi. Se oggi stuprare dei bambini è sbagliato, una volta cambiata cultura diventa lecito, come del resto già accade in certe parti del mondo. Anche il semplice credente molto difficilmente accetta l'autorità della parola di Dio. Lo dimostra il fatto che dopo la conversione ci si adegua più all'ambiente nel quale ci si trova, piuttosto di lasciarsi trasformare da Dio stesso. Prendiamo come esempio un brano in merito al matrimonio, perché se una coppia vive armoniosamente può portare equilibrio in una comunità, diversamente i conflitti tra coniugi vi si riflettono e ripercuotono. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma, a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale, e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. 1 Corinzi 7, 1. Ho riportato questa traduzione per dimostrare come anche i traduttori siano condizionati dalla comprensione che hanno della Bibbia. Il testo in greco non dice che i coniugi devono rendere il dovere coniugale, intendendo con questo l'aspetto sessuale, ma che i coniugi debbano rendere al loro partner ciò che è dovuto. Non è molto chiaro che cosa sia dovuto al partner secondo il pensiero dell'autore. Potrebbe essere qualsiasi cosa, visto che le necessità dei coniugi variano da cultura e cultura. Ma nell'espressione di Paolo è ovvio un qualcosa di valido per ogni coppia, ossia, innanzitutto, l'aspetto umano. Infatti, esiste un ordine dell'Eterno in merito ai mariti, il quale, essendo stato rivolto a una cultura maschilista, acquista ancor più significato, poiché ingiunge proprio a tenere un comportamento umano. Se uno vende la propria figlia per essere serva, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se ella non piace al suo padrone che se l'era presa per sé, egli la lascerà riscattare, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera, perché sarebbe un trattarla con inganno. E se la dà in sposa a suo figlio, la tratterà in base al diritto delle figlie. Se prende un'altra moglie, egli non diminuirà il suo cibo, il suo vestiario e la sua coabitazione. Se non fa per lei queste tre cose, ella se ne andrà per niente, senza pagamento di prezzo. Esodo 21.7.11. L'Eterno Dio si sta riferendo alle serve che andavano in sposa al figlio di un padrone, le quali dovevano essere trattate come una qualsiasi moglie, cioè dovevano ricevere cibo, vestiario e alloggio. Senza queste tre cose la donna aveva tutti i diritti di andarsene, e questo perché venivano meno i primi elementi umani per la sopravvivenza. Cosa interessante è da notare che il termine tradotto dal greco con dovuto lo si trova anche nella parabola del creditore spietato, Matteo 18.32, e viene reso con debito, facendo intendere che dovuto e debito sono sinonimi. Allora, nel matrimonio è necessario mettere enfasi che gli sposi hanno un debito quando contraggono il matrimonio, e questo debito consiste proprio nel dare al proprio partner quello che gli aspetta umanamente di diritto, e cioè il rispetto, l'onore, il sostentamento e l'aiuto. L'Apostolo Pietro lo dice chiaramente. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. 1 Pietro 3.7. Essere un marito comprensivo verso le esigenze della moglie è il primo passo di uno sposo credente. In merito poi alla reciproca mancata podestà della moglie e del marito sul proprio corpo, è un errore vedere in questo comandamento solo la sessualità. Ho presente la confessione di alcune spose che non gradivano il farsi crescere la barba dei propri coniugi, ma questi erano sordi alla richiesta delle loro mogli. Una coppia di queste in seguito si è separata non certamente causa la barba, ma negare alla moglie ciò che era lecito era un sintomo di una difficoltà maggiore. Stessa cosa in merito ai perché non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura mariti. Ci sono spose che decidono autonomamente di avere i capelli corti, mentre al marito piace un altro taglio di capelli un poco più lungo. Quali problemi ci sono per un marito nel radersi la barba o per una donna nel farsi crescere i capelli? Cercare di piacere al coniuge non è forse uno degli scopi principali del matrimonio? Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito, ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. 1 Corinzi 7.3-2.34. Chi cerca di piacere al coniuge piace al Signore perché sta facendo la volontà di Dio. Quanti coniugi non piacciono al Signore perché non piacciono al loro coniuge? Se non si è in grado di ubbidire nelle minime cose per amore di Dio, come si potrà ubbidire in altri aspetti più difficili della vita? Il problema del rapporto matrimoniale non è orizzontale, ma verticale. Desiderare di piacere al coniuge non è tanto un'aspirazione fine a se stessa, quanto un atto per piacere a Dio. Questo è il punto. Chi desidera piacere al coniuge, per il desiderio di piacergli prima o poi, vedrà accadere qualcosa che lo porterà a essere demotivato a farlo. Mentre chi desidera piacere a Cristo non sarà mai deluso né demotivato da quest'ultimo. Se oggi gli sposi hanno una difficile convivenza, lo si deve al loro sguardo concentrato solo sul lato umano piuttosto che alla ricompensa divina, oppure al cercare di risolvere i problemi matrimoniali con i propri metodi senza accettazione per quelli di Dio. In definitiva, non sono sottomessi alla parola di Dio, così come un matrimonio funziona se ogni coniuge cerca di piacere a Dio, anche nell'ambito fraterno, meno come del resto per tutta la vita cristiana. Meno la chiave per una buona convivenza è la sottomissione al volere di Dio. Se un credente non ha come propria autorità personale la parola di Dio, non vi è per lui nessun progresso cristiano e di conseguenza non vi è armonia nell'interpretazione della scrittura stessa. La quarta ragione per cui non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura è che non vi sono principi sani nell'interpretazione e che dobbiamo ripristinare l'ebraicità del Vangelo. Se non avessi mai letto la Bibbia, iniziando a leggere il Vangelo di Matteo, già dalle prime parole mi troverei in difficoltà, perché esordisce così: Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Se predicassi che secondo i Vangeli Gesù è figlio di Davide, non direi una falsità, ma se usassi il termine figlio nel senso comune, cioè il generato rispetto ai genitori, direi una cosa falsa. Potrei con tutte le mie buone intenzioni cercare di difendere ciò che è scritto nel Vangelo di Matteo e sostenere che Gesù è figlio di Davide e che nessuno potrebbe mai farmi dire altra cosa. Ma sarei comunque nell'errore, perché il termine figlio in questo caso non significa il generato rispetto ai genitori, ma semplicemente colui che è nato dalla discendenza di Davide e possiede la stessa fede. Ancora una volta, questo dimostra che non è sufficiente ripetere la parola di Dio quando si predica o si insegna, ma ciò che vale è il senso che noi diamo a ciò che leggiamo. Prendiamo altri tre esempi di interpretazione biblica. 1. Erode come una volpe, Luca 13, 31-32. In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene di qui, perché Erode vuol farti morire meno». Ed egli disse loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò terminato meno». Gesù afferma che Erode era una volpe. Con questo appellativo Gesù non voleva dichiarare che Erode fosse un animale, piuttosto che egli era crudele. L'associazione del concetto di furbizia con la volpe ci viene dalla cultura medievale. 2. Seppellire i morti, Luca 9,59. A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Se non conosciamo il significato dell'espressione «seppellire mio padre», inevitabilmente non comprendiamo l'apparente insensibilità di Gesù. Per i giudei questa espressione si riferiva a tutti il... Perché non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura? Doveri che si avevano nei confronti dei genitori fino alla loro morte. E questo è il motivo per il quale Gesù non ha permesso a un uomo di aspettare tanto per seguirlo. 3. I gradini di Achaz, 2:20, 1:11 e Isaia 38:1-6. Allora il profeta Isaia invocò l'Eterno, che fece retrocedere l'ombra di 10 gradini che essa aveva già percorso sulla scala di Achaz. Questa traduzione porta a pensare che i gradini fossero quegli elementi che costituiscono una scala, ma invece si trattava di una meridiana, cioè di un orologio solare, le cui linee graduate che corrispondevano a mezz'ora venivano. In effetti, se si considerano altre traduzioni, ogni problematica si sfuma. Così traduce la Bibbia di Fulvio Nardoni. Allora il profeta Isaia invocò il Signore, ed egli fece tornare l'ombra 10 gradi indietro sulla meridiana di Achaz. Stessa versione la troviamo nella Bibbia tradotta sotto la direzione di Bonaventura Mariani e quella di Salvatore Garofano. Da notare che il fenomeno del sole che retrocede sarebbe stato osservato anche a Babilonia, 2 CR 32:31. Questi esempi dimostrano che l'impegno più importante del credente non è tanto quello che aggiungere conoscenza su conoscenza, ma quello di acquisire una mentalità ebraica. La quinta ragione per la quale non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura è data dal fatto che non si è completamente convinti di conoscere in parte. Paolo lo disse molto chiaramente: «L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte». Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino. Avevo il senno di un bambino. Ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro. Ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. 1 Co 13:8-12. Che tutti siamo limitati nella conoscenza, lo sappiamo. Per una ragione intrinseca nessuno può conoscere tutto. Ma vi è un'altra ragione che dovrebbe convincerci fino in fondo, e non in parte, della limitatezza della nostra conoscenza, dovuta anche alla nostra condizione di esseri umani maschili e femminili. Poiché è vero che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, poiché è vero che la Scrittura definisce con il termine uomo sia il maschio che la femmina, Come sta scritto? Nel giorno in cui Dio creò l'uomo lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati, Genesi 5, 1 a 2. Dobbiamo convincerci che il maschio non può comprendere appieno la pluripersonalità di Dio, come neppure la femmina. Come la donna non può comprendere pienamente il ruolo dell'uomo, così quando leggiamo che Dio è come una madre che allatta e consola, che lo Spirito Santo fa nascere di nuovo, il maschio è impotente a comprendere fino in fondo queste verità. Questa relatività porta ad avere opinioni limitate e solo con una profonda convinzione di conoscere in parte si è aperti ad altre possibilità di verità sconosciute. Il ruolo della donna è dunque d'aiuto convenevole anche per una più completa conoscenza di Dio. La sesta ragione per la quale non si è d'accordo nell'interpretazione della Scrittura è che non permettiamo di mettere in discussione le nostre idee e convinzioni. Pochi sono coloro che permettono alla scrittura di modificare le proprie certezze acquisite dalla religione e dalla cultura. Perché se così fosse non esisterebbero né il cattolicesimo né il protestantesimo né la religione ortodossa. I figli di Dio si troverebbero insieme guidati da persone riconosciute conduttori per la loro esperienza e autorità. La parola di Dio avrebbe l'autorità di cambiare il loro comportamento. E annunzierebbero solo Gesù Cristo e il regno di Dio. Quando penso a come sia difficile cambiare le proprie convinzioni, mi viene in mente una barzelletta che vale la pena ricordare. Due uomini che avevano abitato sempre in città si recano in campagna per due giorni. Lungo il loro tragitto trovano un animale e lo portano a casa. Verso sera, perché non si è d'accordo nell'interpretazione della scrittura, uno di questi fa un'osservazione. Hai visto che bella gallina? Il secondo replica. Secondo me, non è una gallina, ma un gallo. Ma cosa dici? Risponde prontamente il primo. Osserva bene. Io sono convinto che è proprio una gallina. E di questo passo discutono animatamente. Ad un certo punto l'uomo, convinto che l'animale fosse un gallo, lancia una sfida. Facciamo una cosa. Se domattina sentiamo fare chicchierichì è un gallo. Diversamente hai ragione tu. E una gallina. Bene, dice il primo. Arriva il mattino e tutto ad un tratto i due uomini sentono echeggiare un sonoro chicchierichì. Hai visto che è un gallo? Replica subito l'uomo affermante che l'animale non fosse una gallina. Guarda, risponde con un tono deciso il suo interlocutore, se non avessi udito, con le mie orecchie non avrei mai creduto che una gallina facesse chicchiricchi. Un episodio vero, dimostrazione di quanto sia difficile cambiare convinzioni, è il seguente. Sono cresciuto con l'insegnamento che Gesù tornerà prima dei 7 anni descritti dal profeta Daniele, ma dopo molti anni di lettura biblica sono arrivato alla conclusione che il ritorno di Cristo sarà alla fine dei 7 anni. Dopo aver redatto uno studio in merito, l'ho fatto leggere ad un fratello che la pensava diversamente. Dopo averlo letto gli chiesi un riscontro e se avesse trovato degli errori di interpretazione. Mi disse di non aveva individuato errori di interpretazione. Tutto curioso, gli chiesi se alla luce di quanto letto avesse maturato l'idea che Gesù ritorni dopo i 7 anni di Daniele. Ma lui, imbarazzato, tuttavia sempre pronto, mi rispose di restare della sua convinzione. La settima ragione, e forse la più importante per i figli di Dio per la quale non si è d'accordo nell'interpretazione della Scrittura, è dovuto al fatto che i credenti danno alle parole della Scrittura un significato diverso da quello originale, e quindi, come è risaputo che non è possibile esprimere una verità con delle parole sbagliate, così non è possibile essere d'accordo. Nell'interpretare, se la parola angelo per me ha sempre il significato di un essere creato da Dio con le ali, è evidente che quando leggo che l'angelo dell'Eterno apparve a Mosè, non posso pensare che si tratti di una manifestazione di Yahweh stesso, ma penserò ad una creatura angelica. Posso sostenere a spada tratta che sta scritto angelo e che perciò è un essere creato con le ali, ma sarei comunque dalla parte dell'errore. Infatti, il termine angelo in ebraico ha il significato di annunciatore o di messaggero, perciò quando leggo che l'angelo dell'Eterno parla con Mosè, nella mia immagine mentale vedo un uomo che parlando con Mosè, sta annunciando delle verità. E questo uomo non è altro che un'apparizione di Cristo prima della sua incarnazione nel grembo di Maria. Conclusione. Mentre gli increduli o i religiosi formalisti hanno bisogno uno dello Spirito Santo e due di nascere di nuovo per comprendere la Scrittura, coloro che hanno realizzato la nuova nascita per andare d'accordo nell'interpretazione della Scrittura devono 3. Accettare come massima autorità in materia di fede e di condotta solo la parola di Dio. 4. Devono ripristinare l'ebraicità del Vangelo. 5. Devono essere convinti di conoscere in parte. 6. Devono permettere che la parola di Dio metta in discussione le... Allora, e solo allora, vedrebbero le immense sfaccettature della verità. Febbraio 2007. Perché non si è d'accordo nell'interpretazione della Scrittura? Ellero,